sono un po' emozionato perché Gigi è stato mio studente all'università, uno dei miei primissimi, quindi anche in carte, adesso gli piani sono passati, adesso ci troviamo di fianco. Comunque credo appunto vada ringraziato ancora appunto per aver organizzato questo incontro e vi do soltanto la parola. Grazie. Io vorrei prendere le mosse, introducendo appunto questi nostri lavori, un po' alla larga, dalle recenti celebrazioni per il bicentenario della Rivoluzione francese. Senza voler sminuire l'importanza della scoperta o riscoperta della politica come tratto caratterizzante dell'esperienza rivoluzionaria, nella lettura fornita nell'esempio da Michel Bovet, non v'è dubbio, come ha rilevato in un brillante saggio Dominique Julien, ed è questo ciò che credo maggiormente importa per i nostri lavori, che tra i temi di ricerca emersi da queste celebrazioni un posto sicuramente centrale spetta a quello dei rapporti tra scienza e politica, tra sapere e potere, per riprendere una terminologia tipicamente rapporti indagati dal duplice punto di vista del ruolo degli scienziati nelle conquiste materiali, sociali e politiche della rivoluzione e dell'impero e dell'apporto degli stessi alla progettazione e realizzazione delle nuove istituzioni scientifiche per la formazione del personale tecnico-amministrativo incaricato degli interventi nei diversi settori dell'amministrazione. Centralità, dicevo, dei rapporti tra scienza e potere, confermata dal fatto che tre personaggi, le cui ceneri con una cerimonia di alto valore simbolico sono state traslate al Pantheon, hanno dominato queste celebrazioni. Si tratta di Condorcet, dell'abate Grégoire e di Gaspard Monge. La scelta di questa triade, chiamata in qualche modo a fungere da emblema delle celebrazioni del bicentenario, merita qualche breve considerazione. Se infatti, in particolare attraverso le figure di Condorcet e di Grégoire, si è inteso celebrare anche l'universalità e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo e del cittadino, oltre che, come nel caso di Grégoire, la riconciliazione tra la Chiesa e la Rivoluzione, anche se da parte ecclesiastica non vi è stato molto entusiasmo per un personaggio che aveva difeso la Costituzione civile del clero e il giuramento di fedeltà repubblicana, sono altre le motivazioni che conferiscono unitarietà a questa scelta. Anzitutto si è voluto insistere sull'alleanza che si stringe in periodo rivoluzionario tra la scienza ed il nuovo regime, propagandando una visione della rivoluzione come erede diretta dei luni, e soprattutto si è voluto celebrare il sistema di istruzione pubblica creato dalla rivoluzione e l'operato di questi tre personaggi in questo campo. Condorcet con i suoi rapporti all'Assemblea legislativa, Grégoire in quanto membro tra i più attivi del Comitato di Istruzione Pubblica della Convenzione Nazionale, nonché creatore del Conservatoire des Arts et Métiers, Monge come ideatore del metodo rivoluzionario di istruzione sperimentato per la prima volta nell'anno secondo con l'École des Armes et Foudres, professore all'École Normale dell'anno terzo, di cui sono stati riediti recentemente i corsi, e all'École Polytechnique, nonché vero fondatore di quest'ultima. La vitalità di questo tema e l'interesse che esso suscita nella storiografia francese sull'età rivoluzionaria e napoleonica sono confermati anche, al di là delle suddette celebrazioni, dai numerosi studi pubblicati negli ultimi anni. Basti pensare al poderoso volume di Nicole e Jean Dore sui rapporti tra scienze e potere dalla fine del XVIII secolo agli anni venti dell'Ottocento, ai numerosi contributi di Dominique Julien, al recente volume di Antoine Picon sulle corde Ponts et Chaussées dalla fondazione alla metà del XIX secolo, che affronta meglio di quanto si fosse fatto finora il periodo rivoluzionario e napoleonico, agli importanti studi sulle origini delle corpi del MIT, quando ancora si chiamava il Corso Centrale del Prabolubic, per non parlare dei convegni organizzati proprio in occasione delle celebrazioni del centenario della fondazione delle corpi che cadeva l'anno passato e delle altre numerose iniziative legate a questa commemorazione. Nonostante la carenza di lavori sul tema dei rapporti tra scienza e potere, nonché sulle istituzioni scientifiche, con l'eccezione forse dell'Istituto Nazionale Napoleonico, e sull'organizzazione dell'istituzione superiore e scientifico-tecnica in particolare, per osservare la quale è sufficiente andare a rileggere le due rassegne storiografiche che Pasquale Villani ha dedicato a distanza di 20 anni l'una dall'altra all'età rivoluzionaria e napoleonica, una significativa inversione di tendenza mi sembra si possa registrare negli ultimi anni anche nella storiografia italiana. Si pensi, solo per citare alcuni lavori, ai volumi concernenti l'area toscana, per la quale, come è stato detto, il periodo napoleonico era stato sentito come una insignificante, se non vergognosa interruzione nella continuità della storia domestica, oltre al recente convegno sulla politica della scienza, Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, di cui sono prossimi alla pubblicazione gli atti, ai due tomi della Società Libre di Storia Patria su cartografia e istituzioni, che riguardano un arco cronologico più ampio, ma contengono numerosi spunti e suggestioni interpretative relative anche a quest'epoca, al recente Veneto e Lombardia tra rivoluzione e età napoleonica, che contiene alcuni contributi interessanti sulla formazione e l'attività degli ingegneri nelle due aree e sull'organizzazione del territorio, ai volumi sul Piemonte Sabaudo, editi dall'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e di cui mi limito a segnalare solo l'ultimo, dal titolo All'ombra dell'Aquila imperiale. Per non parlare poi dei contributi sulla formazione e sull'operato degli ingegneri pubblici in alcune aree significative dell'Italia napoleonica, frutto delle ricerche di singoli studiosi, alcuni dei quali sono qui presenti tra di noi. Ho voluto prendere le mosse da questa ricognizione di tipo storiografico per sottolineare certo la vitalità che questo filone di studi ha acquisito negli ultimi anni, ma anche e soprattutto per evidenziare quelli che sono i due primi nuclei tematici intorno a cui ruoteranno verosimilmente i nostri lavori. Vale a dire il potere nella sua declinazione amministrativa, il rapporto ad un settore cruciale quale quello dei lavori pubblici e il sapere considerato non tanto dal versante della sua formazione quanto piuttosto dal punto di vista della trasmissione delle conoscenze teoriche e pratiche indispensabili alla formazione di quel personale tecnico amministrativo, di ingegneri appunto, incaricato della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Il terzo nucleo tematico che compone la triade concettuale a cui faremo riferimento nel corso dei lavori, richiamato anche nel titolo di questo mio intervento introduttivo, è quello, come si può intuitivamente capire, del territorio. Un territorio non più inteso come spazio indifferenziato da delimitare solo nei suoi confini, ma come insieme complesso, denotato dalle sue caratteristiche fisiche, ma anche dalle risorse naturali e dalla popolazione che tali risorse sfrutta e trasforma, territorio di cui si avverte con sempre maggiore consapevolezza, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, la rilevanza anche sotto il profilo economico e fiscale, solcando e vivificato dalle vie di comunicazione terrestri e fluviali che si creano o si adattano in risposta ai nuovi bisogni dello Stato e della società. Un territorio, infine, di cui si promuove con insistenza una conoscenza più analitica e scientifica, si pensi alle rilevazioni cartografiche e statistiche, e che nella sua dimensione politico-amministrativa viene sottoposto ad una divisione amministrativa omogenea, precondizione necessaria perché si possa affermare una normativa unitaria, anche se sopravvivono nel settore delle acque soprattutto disposizioni di tipo particolaristico. Vorrei solo ricordare, en passant, che proprio il settore amministrativo dei lavori pubblici, dei ponti e chaussée, si era qualificato come quello a più elevato tasso di modernizzazione nella Francia del Settecento. La monarchia amministrativa dell'antico regime aveva istituito già all'inizio del XVIII secolo il corpo degli ingegneri e nel 1747 aveva provveduto alla creazione della scuola deputata alla formazione teorica e pratica di questi funzionari tecnici, inaugurando quella politique de grandes écoles che da Luigi XV ad oggi ha rappresentato il segno distintivo del modello di istruzione superiore francese. Realizzazioni queste che sopravviveranno alla stessa rivoluzione, compreso il corpo degli ingegneri, nonostante che nel 93 si fosse decretata la soppressione di tutte le corporazioni, accademie e società scientifiche, considerate come l'odioso retaggio dei privilegi dell'antico regime, e di cui principi costitutivi verranno anzi ripresi e esaltati dall'opera di Napoleone. La centralizzazione amministrativa del servizio, non pienamente realizzata in antico regime, vista l'esistenza dei beni d'età per limitarci ai territori maggiori, che godevano di particolari privilegi e autonomia anche nel campo dell'organizzazione dei lavori pubblici, sarà ora possibile, già che all'eliminazione dei primi aveva provveduto proprio la rivoluzione, e quella tecnica verrà garantita e rafforzata, anzi, grazie alla riforma delle École des Ponts et Chaussées e alla creazione dell'École Polytechnique, scuola preparatoria per tutte le scuole d'applicazione incaricate della formazione degli ingegneri dell'Stato. Venendo all'Italia, prima di entrare nel tema specifico dei nostri lavori, vorrei svolgere due osservazioni preliminari. La prima, ancora una volta, è di tipo storiografico e riguarda una certa lettura che è stata fornita dell'età napoleonica nella penisola. È notorio che soprattutto dagli anni 50 di questo secolo gli studiosi hanno privilegiato soprattutto lo studio dell'età rivoluzionaria. Tanto che il maggiore esperto dell'età napoleonica in Italia, Carlo Zaghi, ancora di recente, nel raffronto tra l'età delle rivoluzioni e delle speranze palingenetiche e gli anni del regno napoleonico, ha potuto scrivere che questi ultimi emergono come un'età opaca, grigia, dominata dall'ordine geometrico, rigida nelle sue strutture civili e amministrative, in cui le idee erano bandite o perseguitate come forme di disordine e di disgregazione sociale e la cultura asservita al potere. Mi sembra invece che proprio per le realizzazioni in campo amministrativo, e senza voler con questo sminuire l'importanza delle sollevazioni rivoluzionarie, quest'epoca sia di cruciale importanza per la storia della penisola e meriti una nuova riconsiderazione, di cui peraltro non mancano gli esempi nella storiografia recente. L'età napoleonica si presenta in sostanza, ed è questa la seconda osservazione a cui facevo riferimento, per la storia della penisola come il primo momento in cui si cerca di fare i conti sulla scia dell'esito napoleonico delle conquiste rivoluzionarie con le peculiari tradizioni socio-amministrative della penisola, in una parola con il pluralismo e la frammentazione politica che aveva caratterizzato la storia d'Italia prima dell'Italia, per riprendere una fortunata espressione. Non si tratta certamente di presentare questo momento storico come l'antecedente immediato dell'unificazione nazionale, lettura presente peraltro in una storiografia di stampo risorgimentale, che anzi l'esperienza napoleonica si presenta in modo assolutamente diversificato nelle varie zone della penisola, trovando proprio in questa variegata diversità la sua peculiarità e una grande ricchezza euristica. Eppur tuttavia, essa rappresenta il momento del confronto, a partire da tradizioni differenti, con le esigenze di uniformità e di centralizzazione amministrativa e di ordine sociale prevalentemente affermate dalla rivoluzione e veicolate dalle armate francesi. Senza entrare nel merito dei processi di aggregazione e disgregazione territoriale così legati alle complesse vicende militari e diplomatiche del periodo, possiamo distinguere tre insiemi territoriali a loro volta scomponibili al proprio interno in altre zone geopolitiche di riferimento, rilevanti anche per quanto riguarda la politica della formazione tecnico-scientifica e l'amministrazione dei lavori pubblici. Il primo è quello dei territori direttamente annessi o incorporati all'impero, vale a dire il Piemonte Sabaudo, la Toscana Granducale e successivamente i territori pontifici e Roma. Il secondo è quello del Regno di Napoli e il terzo quello del Regno d'Italia. Per quanto riguarda i primi territori, quelli direttamente annessi in fasi diverse alla Repubblica Francese e all'Impero, la questione del servizio dei Ponts et Chaussées e della formazione del personale tecnico si pone in termini affatto particolari. Senza voler sottovalutare le differenze, anche notevoli, esistenti tra le diverse aree territoriali che entrano a comporre questo primo insieme e che sono riconducibili alla differente storia geopolitica e amministrativa e al diverso sviluppo economico e sociale, Questi territori, essendo inseriti nel sistema amministrativo imperiale, sono trattati alla stregua degli altri dipartimenti francesi. Al vertice del servizio, obbedendo alle richieste di razionalizzazione amministrativa e di uniformità operativa avanzate senza sosta dall'imperatore, responsabile dei dipartimenti al di là delle Alpi, così come avviene in Olanda o in Belgio, è nominato, ma solo nel 1810, il toscano Giovanni Paproni, alle dirette dipendenze del direttore del corpo imperiale e del ministro dell'interno. Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione dei più importanti lavori pubblici, sospesi tra esigenze militari e di organizzazione del territorio, essa era prevalentemente affidata a ingegneri francesi. Si pensa ai nomi di Chabrol, ingegnere e prefetto di Montenotte, ma anche a Prolin, Bruyère, Roland, anche se coadiuvati e assistiti da tecnici italiani, i quali però molto di rado riescono a raggiungere i posti di vertice dell'amministrazione tecnica. La storia dell'operato dei ponts et chaussées dei dipartimenti direttamente annessi all'impero è ancora in gran parte da scrivere, così come da affrontare il rapporto e il confronto tra ingegneri francesi e italiani, ed è inutile sottolineare l'importanza che avrebbe uno studio siffatto, non solo per quanto concerne la circolazione delle conoscenze tecnico-scientifiche o lo stato delle infrastrutture viarie, ma anche più in generale la storia politica e sociale. La peculiare posizione di questi territori si riflette anche nella formazione dei quadri tecnici, per la quale non vennero approntate soluzioni della portata di quelle che si adottarono invece per il Regno di Napoli o quello d'Italia. Le poche iniziative ebbero carattere episodico, come l'inaugurazione nel 1804 a Torino di un corso pratico di geometria affidato a Giovanni Giuseppe Castellano presso la Scuola per Dimensioni, istituita con il coinvolgimento dell'Accademia delle Scienze per formare il personale tecnico addetto ai lavori per il nuovo catasto, corso che venne soppresso a distanza di appena un anno. Ma la via più seguita fu quella della formazione presso l'École Polytechnique parigina, per frequentare la quale si doveva superare il terribile concorso di ammissione, al quale a partire dall'aprile del 1802 poterono prendere parte gli studenti piemontesi. Una ventina di questi ultimi furono ammessi all'École parigina a partire dalla promozione del 1804 fino a quella del 1813, assieme a qualche studente genovese e toscano. Nello Stato Pontificio, il principale ostacolo alla modernizzazione del servizio amministrativo delle strade e delle opere pubbliche, cui sovrintendeva la Congregazione del Buon Governo, era rappresentato dal monopolio ecclesiastico e nobiliare sulle cariche pubbliche. Solo alla fine del 1809, un decreto della consulta straordinaria degli stati romani creò il Bureau des Ponts, Arches et Travaux Publics e provvide alla riorganizzazione del servizio tecnico, riorganizzazione che prefigurava in qualche modo la creazione del corpo degli ingegneri pontifici. Nelle legazioni, invece, la Repubblica Italiana intervenne in maniera più determinata e incisiva nel settore. Ma sulla situazione di questi territori, un quadro più chiaro e preciso, anche in relazione agli sviluppi successivi, ci verrà dato dalle relazioni di Diana Toccafondi e Luigi Vete. Una situazione del tutto differente si registra nel Regno di Napoli, retto dal 1808 da Gioacchino Murano, la realtà che sembra maggiormente avvicinarsi al modello amministrativo e di formazione di derivazione francese. Anche se, anche in questo caso, insistere sulle analogie non può certo portare a sottovalutare le differenze che pure esistono e sono vistose ed hanno a che fare soprattutto con la differente coesione politico-territoriale e le diverse fasi sociali del Regno di Napoli. Qui si procedette nel 1808-9, poco tempo dopo analoghe misure prese nel Regno d'Italia, all'istituzione del Real Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade, organismo che ricalcava nella gerarchia e nelle funzioni l'omologo corpo degli ingegneri operante nella Francia imperiale. E subito dopo, nel 1811, per garantire il reclutamento del corpo, avvenuto inizialmente per chiamata e nomina diretta, senza concorso, e la necessaria preparazione dei futuri ingegneri, che lasciava alquanto a desiderare fino a quel momento, venne fondata, sempre seguendo il modello francese delle scuole speciali, nella quale è stato giustamente visto uno dei punti migliori dell'incontro del nostro mezzogiorno con la grande tradizione della cultura tecnica dell'arte. Personaggio centrale nella trasposizione di questa via francese alla modernizzazione tecnico-amministrativa, se così si può dire, ad una realtà caratterizzata da una profonda arretratezza economica, fu Carlo Afanderivea, alla cui figura e al cui operato, al vertice della Direzione Generale di Conti e Strade, è stata di recente dedicata una nuova e meritata attenzione da parte di numerosi studiosi, tra cui da ultimo anche da Giuseppe Costari. Il Regno d'Italia, su cui si soffermerà almeno per quanto riguarda la parte lombarda Giorgio Bigatti, che alla provincia delle Acque ha dedicato un bel volume, rappresenta la terza realtà di cui parlavo all'inizio e si caratterizza anch'esso per peculiarità di sviluppo. Uno dei primi provvedimenti presi da Napoleone all'indomani della sua autoinformazione al re d'Italia nel Duomo di Milano fu la creazione di una direzione autonoma del servizio di Acque e Strade, incardinata nel Ministero dell'Interno, a capo della quale venne nominato il reggiano Giovanni Paradiso, uomo politico di spicco della Cisalpina, di ispirazione moderata, nonché professore di geometria e geodesia a Reggio Emilia. Consigliato e coadiuvato da De Brony, il grande ingegnere francese, direttore dell'École des Ponts et Chaussées, professore all'École Polytechnique e consulente dell'imperatore per tutti i problemi tecnici inerenti ai più importanti lavori della penisola, dai lavori sul porto del Po a quelli dei porti di Genova, La Spezia, Ancona, Venezia, Paradisi cercò con estrema competenza e in modo empirico di adattare il modello di amministrazione francese alla differente realtà sociopolitica, culturale e materiale del regno. Al termine di un intenso lavoro di preparazione, il 6 maggio Napoleone firmò da Saint-Cloud il decreto sulla sistemazione e l'amministrazione generale delle acque strade, che al titolo 1 istituiva il corpo degli ingegneri d'acque e strade, organizzato sia gerarchicamente che funzionalmente sul modello di quello imperiale. Per la prima volta, tenendo conto soprattutto della pluralità di soggetti coinvolti, della complessità della materia e della confusione legislativa esistente in precedenza nelle diverse realtà politiche poi entrate a far parte del regno, si legiferava in modo complessivo e unitario a partire da principi ispiratori di stampo centralistico in un settore così delicato della vita sociale e economica. Ma a riprova anche dell'accortezza e dell'abilismo con cui si mossero gli amministratori italici e il Paradiso in primo luogo, che aveva emanato una serie di 5 regolamenti applicativi per la sistemazione normativa dell'intera materia, un decreto vicereale a data 20 maggio 1806 veniva a sospendere gli effetti della legge di riforma nei paesi ex veneti da poco aggregati al regno con la pace di Presburgo, per i quali occorrevano, come si scriveva, particolari provvedimenti in materia d'acque e di strade, attese le loro circostanze speciali. La volontà accentratrice e la tendenza all'uniformità amministrative della nuova classe di governo napoleonica trovano quindi un freno e un ostacolo nel riconoscimento della specificità delle province venete, soprattutto in materia d'acqua. La delicata situazione idrografica veneta, cui era legata la sopravvivenza stessa del sistema lagunare, sconsigliava l'estensione automatica di regolamenti e provvedimenti generali anche a quei territori e apriva un serrato dibattito sull'anomalia di tale situazione e sulla necessità di mantenere le antiche specificità di governo e di intervento autonomo o di affrontarne di nuove. Con l'istituzione, sia pure provvisoriamente, di un magistrato centrale alle acque, con sede a Venezia, i napoleonici sembrano prendere atto dell'anomalia veneta, ma in realtà non concedono nessuna autonomia a Venezia, visto che esso stende e deve rispondere alla Direzione Generale di Acque e Strade. Inoltre, continuano ad esistere e ad operare i magistrati dipartimentali alle acque, ragion per cui i poteri del magistrato centrale si limitano al controllo e all'ispezione di quanto realizzato dagli uffici dipartimentali e al rilascio del benestare per i lavori proposti in sede locale, in nome del coordinamento tra iniziative e interventi locali e quadro generale di riferimento. Ma a ben guardare, quest'ultima funzione vale a dire lo studio e la formulazione di piani complessivi in materia idrica, spetta ad un altro soggetto, la Commissione Idraulica, nominata e istituita nello stesso periodo, alla quale spetta l'esame dei lavori deliberati in materia d'acqua dai singoli dipartimenti e l'adozione di quel piano generale dei lavori che possano conciliare tutti gli interessi di Venezia con quelli della terraferma. L'insediamento a Padova, come il punto più centrale delle ex province venete, della Commissione testimonia della volontà politica anti-veneziana degli amministratori lombardi del regno. Il risultato fu una estrema confusione operativa, tanto che sia il direttore generale che quello del magistrato veneziano dovranno intervenire frequentemente a fornire pareri e a dirimere contenziosi tra magistrato e proprietari e conflitti tra magistrato e prefetture da un lato e tra magistrato e direzione centrale dall'altro. Confusione accentuatasi ulteriormente con la decisione di ridare validità giuridica agli antichi ordinamenti veneti, tanto che di lì a poco, dopo la soppressione dei magistrati dipartimentali e la concentrazione nelle prefetture delle relative competenze, verrà abolito anche quello centrale di Venezia ed incaricata la direzione generale di conciliare l'esecuzione dei lavori d'acqua nei dipartimenti di nuova aggregazione con la sicurezza della laguna di Venezia. Il caso di Venezia e della sua laguna, nonostante la persistenza di uffici e mansioni particolari, tornava in sostanza ad essere assimilato a quello di tutti gli altri dipartimenti del regno. Ma torniamo all'innovazione più importante introdotta nell'amministrazione di acque strade del Regno Italico, vale a dire l'istituzione del Corpo degli Ingegneri. Una circolare del 18 novembre 1806, indirizzata da Paradisi a tutti gli ingegneri, chiariva con estrema efficacia le finalità del Corpo nelle intenzioni dell'amministrazione e ciò che era richiesto ad ogni singolo tecnico e funzionario. Una istituzione che veste il carattere di corpo quasi militare e che riunisce alle marche di onore la privativa di un servizio reale, interessante la prosperità del regno sotto tutti i rapporti di economia pubblica, ha per il scopo principale la fedeltà dell'amministrazione, la diligenza di prevenire i bisogni, la capacità di progettare le opere d'arte le più solide ed economiche e la rapidità dell'esecuzione. Gli individui che compongono il corpo, ciascuno nel rispettivo rango, sparsi su diversi punti del regno, quindi sparsi su diversi punti del regno, sono tanti agenti del governo che, regolati da uniformità di massa ed animati da uguale zelo e da vendetta, hanno il debito preciso di giustificare nell'esercizio delle rispettive competenze la fiducia in loro riposta dal monarca e l'aspettativa del pubblico. Sembra quasi di riascoltare analoghe istruzioni indirizzate dall'intendente delle finanze o dal direttore e primo ingegnere del corpo agli ingegneri di ponti e strade francesi d'antico regime. Il problema più complicato e di difficile soluzione con cui Paradisi si trovò a fare i conti con un calo di voce fu quello relativo alla formazione degli ingegneri e al reclutamento del corpo. A quest'ultimo proposito, il decreto istitutivo aveva stabilito l'articolo 4 che gli aspiranti sono scelti tra gli allievi che si sono più distinti nella scuola delle arti e strade, e fino a tanto che questa non sia in vigore, tra gli allievi delle due università del regno e della scuola militare del genere. Un istituto speciale per la formazione teorica e pratica degli ingegneri era quindi ritenuto necessario già all'atto di costituzione dell'amministrazione di acque e strade e verrà formalmente istituito di lì a poco, come vedremo, ma intanto bisognava fare i conti con una preparazione sommaria e costitutiva dei tecnici e soprattutto molto disomogenea. aveva per l'appunto presso le due università del Regno, riorganizzate alla fine dell'ottobre 1803, secondo un progetto scientifico e disciplinare di Roma. Per gli ingegneri architetti erano previsti 4 anni di corso di studi presso la classe di scienze matematiche e fisiche, al termine dei quali lo studente poteva conseguire i gradi che non abilitavano però ancora la professione, per la quale abilitazione era altresì necessario un tirocinio pratico presso un ingegnere patentato. Ma oltre alle due università, alle quali si aggiungerà Padova dopo l'annessione del Veneto, altre istituzioni dispensavano una preparazione teorica nelle matematiche. Tra di esse, un cenno particolare merita la Scuola del Genio di Verona, centro di formazione tecnico-scientifica del Corpo degli Ingegneri Militari della Serenissima, creata nel 1770 e chiusa alla caduta della Repubblica Veneta, diretta per molti anni da un personaggio di eccezionale statura scientifica e tecnica, quel dato Mario Lornia, ingegnere e scienziato, membro delle più importanti accademie scientifiche d'Europa e ideatore e fondatore dell'Accademia dei 40. Ma oltre ad essa va menzionata anche la Scuola del Genio e dell'Artiglieria di Modena, il cui orientamento didattico, messo a punto da Leonardo Salimbeni, già direttore della Scuola Veronese, sul modello francese si differenziava da quello universitario. E soprattutto la Scuola Speciale di Idrostatica, fondata a Ferrara nel 1804, dopo la soppressione dell'università, la cui cattedra di idraulica fu tenuta da Teodoro Bonanni. La frequenza della scuola valeva come un anno di tirocinio pratico per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di ingegnere civile. Il diverso iter formativo che seguivano gli aspiranti ingegneri del Corpo di Acque e Strade, la scarsa preparazione tecnico-scientifica e più in generale il complicato rapporto da stabilire tra teoria e pratica in relazione alle concrete esigenze del servizio erano seri motivi di preoccupazione e riflessione nell'amministrazione. Lo stesso ministro dell'Interno di Brehme dava voce alle critiche rivolte alla preparazione degli ingegneri. Nelle università del Regno, sebbene vengano insegnate le matematiche astratte e le matematiche applicate, l'attenzione però di tali insegnamenti nel periodo del tempo prescritto al loro corso impedisce di rivolgere le lezioni particolarmente a quelle cose che più da vicino riguardano la professione di ingegnere. Quindi i giovani, dopo aver ottenuto nelle università il grado accademico, sono ben lungi dal conoscere fin dove si estenda l'importanza della loro arte. Sovente perciò si abbandonano ad una cieca pratica, condannando per sterili le troppo astratte apprese teorie e regolandosi ad ogni incontro a tentoni s'alimitano con la loro reputazione gli interessi dello Stato e dei privati che avevano posto in essi una piena fiducia. L'esigenza di poter contare su tecnici preparati e competenti destinati al servizio nell'amministrazione statale, di migliorare l'omogeneità della loro preparazione, di stabilire un efficace rapporto tra conoscenze teoriche e pratiche, finalizzato alla promozione del benessere materiale delle popolazioni, è alla base quindi del progetto di creare una scuola speciale per la formazione degli ingegneri di acque e strade. Istituita con decreto del 9 gennaio 1807, la scuola, che prendeva a modello quella parigina, avrebbe dovuto completare il progetto complessivo del servizio di acque e strade, assicurando la centralizzazione e l'omogeneizzazione della formazione degli ingegneri. Sempre un articolo del piano organico, che si prevedeva entrasse in vigore solo in un successivo momento, stabiliva che qualunque impiego di architetto civile o ingegnere non compreso tra quelli del Corpo delle Acque e Strade, ma che sia pagato dal governo, non potrà essere conferito se non a chi è stato patentato nella Scuola delle Acque. Per la scuola si prefigurava cioè una sorta di monopolio sulla formazione professionale, almeno per ciò che concerne i lavori pubblici. La mancata attivazione della scuola non consentì di completare il progetto napoleonico tendente a unire strettamente didattica, professione e corti amministrativi. Tuttavia, in questo caso, anche un fallimento può essere altrettanto indicativo e rivelatore. La vicenda relativa al corpo degli ingegneri di arte e strade del Regno d'Italia, su cui mi sono soffermato forse troppo a lungo, mi consente di riprendere un'osservazione generale che ho abbozzato all'inizio di questo intervento introduttivo. Nelle considerazioni conclusive del suo libro, già ricordato, Giorgio Bigatti interpreta, al termine dell'analisi di una vicenda plurisecolare, l'età napoleonica come una cesura epocale nella storia non solo amministrativa della penisola, e come il ritorno sulla scena di un vecchio attore, lo Stato, sia pure in abiti completamente rinnovati. Non v'è dubbio che l'esperienza napoleonica abbia segnato, e non solo in Italia, ovviamente, la completa affermazione della funzione amministrativa come attività specificamente pubblicistica degli stati moderni e la definitiva emarginazione di questa modalità giurisdizionale e tutoria di funzionamento del potere tipica dell'antico regime. Tuttavia, mi sembra che questo ritorno sulla scena dello Stato non debba far dimenticare la sedimentazione di istituzioni e di tecniche amministrative che si attuano nei secoli precedenti e nel Settecento in particolare, anche negli stati regionali italiani e non solo nella grande monarchia amministrativa francese. La straordinaria importanza dell'esperienza napoleonica è legata proprio a questo, al fatto cioè che consente di misurare le tradizioni e le persistenze dell'antico regime e di valutare le aperture e gli sviluppi successivi. In sostanza, consente di porre in maniera problematica l'annosa questione della continuità e discontinuità tra antico regime e post-rivoluzione. Se per quanto riguarda l'esperienza storica francese si è assistito negli ultimi decenni ad una revisione della tesi tocquevilliana della continuità, spostando il momento della presunta cesura dalla rivoluzione ai decenni centrali del Settecento, in analogia con quella Zeit, quella soglia della modernità di cui ha parlato Seidel, mi sembra che in rapporto al caso italiano la questione diventa ancora più interessante e si presenta in modo molto più complesso e articolato. Essa infatti va rapportata alla situazione di pluralismo politico esistente nella penisola e quindi alle differenti tradizioni amministrative e alle diverse vie percorse dalla politica delle riforme, che pure segnò delle acquisizioni importanti nel settore dei lavori pubblici e dell'istruzione tecnico-scientifica, non solo nella Lombardia Alburgica o nel Piemonte Sabaudo, ma anche nel Regno di Napoli o nella terraferma Veneta. In rapporto a queste tradizioni particolaristiche, è chiaro che l'età napoleonica acquista una luce tutta particolare. Ma non è solo il legame o la rottura rispetto alle precedenti esperienze settecentesche degli stati regionali italiani che l'età napoleonica contribuisce a mettere a fuoco. Essa consente di porre un'ulteriore domanda concernente gli sviluppi politici e amministrativi della penisola nell'età della restaurazione e fino all'epoca dell'unificazione nazionale. Cosa e quanto resta infatti dell'esperienza e dell'interventismo napoleonico e più in generale del modello francese di amministrazione e di formazione nel campo dei lavori pubblici e dell'ingegneria e nell'organizzazione dell'istruzione superiore degli stati pre-unitari e dell'Italia Unita? Credo sia ancora prematuro, allo stato degli studi, fornire una risposta esauriente a questa domanda, anche se si possono individuare alcune linee e tendenze di sviluppo che si ricollegano strettamente all'esperienza napoleonica. Basti pensare, con riferimento all'intera penisola, alla sopravvivenza del corpo degli ingegneri di ponti e strade e della relativa scuola sotto la restaurazione borbonica nel Regno di Napoli, oppure alla creazione nel 1817 del corpo degli ingegneri pontifici che si rifaceva all'esperienza francese, o ancora alla ripresa di molti elementi dell'amministrazione francese nel nuovo ordinamento austriaco della restaurazione. Per non parlare dell'esperienza unitaria, allorché con la creazione delle scuole di applicazione per la formazione degli ingegneri si realizzerà quel pandan formativo in attuando nel Regno d'Italia napoleonico con il corpo di arte e strade, diventato intanto il corpo degli ingegneri del genio civile. Grazie. criticare l'inizio dei lavori migliori di questo, si vede che lei è nato degli ottimi professori all'università, e Gigi ci ha dato un quadro, credo, quanto generale, quanto mai completo e chiaro delle profonde novità e ristrutturazioni che il dominio napoleonico ha introdotto nel settore dell'amministrazione di acque e strade e nel settore della formazione degli ingegneri. E tra l'altro ha anche mostrato in qual modo il modello francese ha agito all'interno delle varie realtà della Pechino. Credo che con questa relazione abbiamo presentato le fondamenta dell'argomento trattato e si possa ora passare alla costruzione dei vari appartamenti, vale a dire all'esame delle varie situazioni particolari, delle varie situazioni locali.